Davide Pordenone, buongiorno. Io sono un tifoso granata da prima di nascere, sono nato 9 mesi dopo l'ultimo scudetto del 76 con Pulici e Graziani davanti. Detto questo, forza Bayern Monaco con tutto me stesso, perché devono uscire. Tutti convocati di Carlo Genta. Partiti con il tocco all'indietro per Pirlo. Questa è una città che respira, che trasuda storia calcistica. Tra l'altro tante squadre italiane hanno compiuto delle vere e proprie imprese qui, anche in casa del Bayern Monaco. Una di queste fu il passaggio del turno nella semifinale, quindi l'accesso in finale nel 90 del Milan, che riuscì a farlo con un... E qui attenzione, clamoroso, scivola Buffon e dalla distanza c'è il gol del vantaggio con Alaba del Bayern dopo meno di 30 secondi, incredibile! Forse non hai capito bene il gioco, eppure è molto semplice, stai ben attento. Poi serve Luis Gustavo. A giro Buffon, Mandžukić e Müller da due passi mette dentro il 2-0. Troppo facile per Müller segnare questo gol. Ancora una volta non impeccabile Buffon, il pallone è rimasto lì. Gufi, dove siete? 800 24 00 24, numero verde. Franco Piantani, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ma al di là delle battute, degli scherzi, adesso abbiamo la misura di quello che separa la Juventus dal tetto dell'Europa. La cercavamo dopo il morbido muschio del Celtic. Il Bayern Monaco è una delle tre squadre più forti d'Europa insieme alle due spagnole, e adesso possiamo capire quanta distanza c'è tra la Juventus di Conte e il vertice, il tetto dell'Europa. Antonio Barilla, buonasera, buongiorno. Buongiorno a voi. Ora abbiamo tutto, ora è tutto chiaro, Antonio? No? Ma mi pare tutto chiaro fino a un certo punto, a mio giudizio, nel senso che inevitabilmente esiste una linea di differenza netta che tra l'altro era prevedibile ancora prima della partita, e non fosse altro per gli investimenti che vengono effettuati consentiti da un fatturato maggiore. Quindi noi, nonostante la Juve sia all'avanguardia in Italia, siamo complessivamente un po' dietro da tutti e due i punti di vista. Detto questo, ritengo però che forse ieri si è creato un eccesso nella forbice, cioè un Bayern veramente in forma e una Juve veramente in difficoltà. E probabilmente la differenza c'è, è andata anche bene a livello di risultato per come è messa la partita, ma sono convinto che non è così netta e marcata come può sembrare volgendo il nastro dei 90 minuti. Senti Antonio, ieri Conte ha sottolineato quali sia la differenza di budget tra il Bayern di Monaco e la Juventus. Una Juventus che ha già vinto lo scudetto ed è inutile nasconderlo. Una Juventus che sognava la Champions League, ma ieri sera abbiamo capito che non è attrezzata per questo obiettivo. Non c'è niente di cui vergognarsi o di cui su cui fare polemiche. Però la distanza tra la Juventus e il tetto dell'Europa è quella che abbiamo visto ieri sera. Ieri sera il Bayern Monaco ha giocato come gioca normalmente la Juventus, però con più qualità. Con molta più qualità, ripeto, ieri sera ha trovato anche una partita perfetta, ha costretto la Juve all'errore, ha trovato un gol dopo pochi secondi che ha spianato la partita, però l'analisi è giustissima e probabilmente al di là del confronto diretto credo che fosse già intuibile da prima. Queste squadre hanno dei grandi fatturati e delle grandi risorse, chi non ha il grande fatturato spesso ha degli sceicchi alle spalle. La Juve non ha nulla di tutto questo, sta costruendo un autofinanziamento importante attraverso lo stadio, attraverso tutto l'indotto del medesimo, però chiaramente bisogna fare tanta strada. Ieri sera Conte ha fatto un esempio isolato, quello di Martinez, pagato 48 milioni, quindi la clausola di rescissione più l'ingaggio, non era neanche in campo e i sostituti sono andati benissimo, e aveva già accennato a questo tema in altre circostanze. È inevitabile che la possibilità di spendere per il cartellino e soprattutto di garantire determinati ingaggi che in questo momento in Italia, non solo alla Juve, non possono essere garantiti, ci taglia fuori rispetto ai grandi club europei. E c'è una frase che Conte ha pronunciato ieri sera in sala stampa, non aveva detto in TV, è quella dei grattacieli. Prima aveva detto i grattacieli non si costruiscono in pochi giorni e quello lascia capire come il progetto sia solo all'inizio. Poi ha aggiunto un qualcosa di secondo me significativo, dice non si costruiscono con palette e secchielli. Occorre fare qualche sacrificio per colmare il gap, ma sicuramente la Juve dovrà inventarsi qualcosa a livello di ingegneria economica, dovrà vendere qualche pezzo grosso per autofinanziarsi, dovrà trovare risorse, sicuramente non le ha dentro di sé come le hanno Real Madrid, Barcellona o appunto Bayern Monaco. Sì, adesso molti buttano la croce su Buffon, mi sembra ingeneroso, anche se sui due gol ha responsabilità non lievi. Beh, ieri sera è stata una serataccia per tutti, e che tra Buffon e quei errori hanno lasciato un segno, ma mi permetto anche di rilevare che probabilmente senza la grande parata all'ultimo minuto saremmo qui a non avere più nemmeno una minima speranza. Certo. Ma quello che ha colpito ieri sera è che ha tradito tutta la Juve, ma in particolare sono rimasti impressi gli errori di Pirlo a centrocampo e gli errori di Buffon tra i pali. Se in una serata così i due uomini con più esperienza, con più carisma e con più classe ti lasciano, e beh, è chiaro che le loro prestazioni rimangono ancora più impigliate negli occhi dei tifosi. Nessuno pretendeva che fosse Peluso oppure Matri, esperti di Champions, a fare la differenza. Da loro ti aspetti sempre qualcosa in più. Anche perché, Antonio, se Mourinho non è Pirla, non lo è neanche Hainkes, che lascerà la panchina a Guardiola, che darebbe, credo, un braccio per vincere questa Champions League. Ha studiato la Juventus in ogni minimo dettaglio. E ieri sera se l'è messa nel sacco laddove la Juventus è più forte, cioè a centrocampo. Sì, è stata una, guarda, è stata una partita senza storia, perché sono speculari, puntano sull'intensità, sul ritmo, sul possesso. Però ieri sera, per come lo ha esercitato il Bayern, sicuramente per la Juventus sono rimaste solo briciole. Proprio come dicevi tu prima, un'interpretazione analoga, però supportata da una qualità assolutamente maggiore e, diciamolo pure, da una malizia assolutamente maggiore, perché comunque in questo momento difficile per la Juve, per il calcio italiano, perché comunque abbiamo avuto un'ennesima prova di differenze che non sono solo fra due squadre, ma fra diverse squadre, in ogni caso non dobbiamo dimenticare che in soli 16 mesi Conte ha fatto un miracolo. Certo. Grazie Antonio. Inviato. Grazie a voi, buona giornata. Antonio Barilla, inviato del Corriere dello Sport. Io sono molto curioso di sentire... cosa ne pensate voi? Ieri avevamo molta fiducia in questa Juventus sul campo del Bayern di Monaco. Abbiamo detto che era l'esame di maturità o di laurea della Juventus in Europa. Questo è lo scritto è stato da 4. Aspettiamo tra una settimana a Torino l'orale, però l'orale mi sembra abbastanza difficile per agguantare quel 6 che qualificherebbe ai quarti di finale. Ci fermiamo per il traffico e poi torniamo con voi. 800 24 00 24, numero verde. Io ho ribadito sempre che la Champions per noi rappresenta un sogno, quindi stiamo cullando questo sogno, stiamo andando avanti, vediamo dove ci porta questo sogno, ma sappiamo benissimo che la Champions è un girone molto molto tosto, con squadre rodate, con squadre che sono attrezzate. Ma se io penso al Bayern Monaco, che con un singolo giocatore Martinez ha speso 48 milioni, ecco, finisce lì tutti i discorsi, ecco. E ripeto, queste sono partite che ci devono far capire bene se c'è distanza, quanto distanza c'è da queste, okay, da queste superpotenze, quindi, ma in maniera molto, molto serena. Tutti convocati. Io. Buffon. È successo che ci è andato incontro un ragazzo dei nostri e poi nel momento in cui ha calciato, io mi stavo, diciamo, spostando verso destra, l'ha toccata, non mi ricordo il nostro, che penso forse Arturo, e la palla mi ha preso in controtempo lì in pratica. Sì, avevo già fatto un passo verso destra, poi nel momento in cui l'ha toccata Arturo ha preso un altro tipo di traiettoria e sei anche scivolato. Vabbè, queste le scuse di Buffon, che però ha, secondo me, sulla coscienza il primo gol del Bayern di Monaco, perché possiamo parlare di questo pallone strano e poi lo faremo, possiamo parlare di questo pallone che sembra quello che usavamo da bambini e che costava 1000 lire e che prendeva gli effetti più strani del mondo, però qui si sta parlando di Champions League e il pallone è uguale per tutti, già lo sapevamo. Ci andrà su Twitter che scrivo: ti prego signor Genta, di che la Juve non ha nessuna speranza di recuperare al ritorno, così vinciamo facile. Lo dico, se devo fare il bastian contrario, fammi sentire il gufo Roberto Scaltritti. Poi se valgono anche queste cose, vabbè, la partita di ieri sera l'abbiamo vista tutti, la Juventus è stata asfaltata dal Bayern di Monaco come aveva asfaltato l'Inter. Mi è sembrata una partita, insomma, analoga a quella che abbiamo visto a San Siro domenica. Il Bayern Monaco è più forte della Juventus. Se cuore di panna Robben non avesse avuto troppe perplessità sotto porta, probabilmente staremo anche parlando di un passivo diverso. Se Robben è un top player, vabbè, forse è meglio farne a meno. 800240024 numero verde. Ci prendevamo, Francesco su Twitter, ci prendevamo in giro per il 4-0 del Milan. Mica sempre si incontra il Celtic, no, certe volte bisogna fare i conti con avversari più forti se si gioca in Champions League. Marco Pistoia, buongiorno. Sì, buongiorno gente, salve. No, appunto, io sono juventino, volevo fare una considerazione che hai già fatto te, quella di dire che comunque sia ieri sera il Bayern ha asfaltato la Juve, e Buffon l'ha detto chiaramente, loro hanno fatto 20 tiri in porta, quindi alla fine che culo, è andata bene. Che culo, che bravi. Però, ma sì, non nel senso. Che culo, ma per la Juventus poteva prendere, certo, di più. Questo dicevo, questo. No, ma poi dicevo, del resto il Bayern non solo è più squadra della Juve perché ha più, diciamo, ha più ore di volo, ma a livello anche di singoli in queste partite paghi il fatto di avere, di non avere top player o comunque di avere dei buoni giocatori ma non, certo, fuori classe. Certo, perché ieri sera trovi un Robben che meno male stava male. No, quello, cioè, ma stava male. Robben è un giocatore morbido. Cioè, se Robben è un top player, beh, è un top player che io non vorrei. Gran giocatore, no, però si scioglie nelle partite, però, così. Sì, perché però, sinceramente ha avuto due occasioni, stato... una l'ha sparata addosso a Buffon e l'altra l'ha tirata come potevo, sì, fare io o te, no? Su quella fascia ieri sera Peluso a un certo punto era disperato. Ribéry dalla parte di qua, mamma mia, ragazzi, quella ha fatto una partita incredibile. Quello è un top player. Un top player attaccante quando vuoi... trovi una squadra come il Bayern che ti divide in due o un tre tronconi la tua. Sì, ma però Mimo, scusa Marco, però posso dire dov'era Asamoah, che secondo me ha più qualità, più corsa, più fisico, sì, più esperienza internazionale di Peluso. Allora, io ti posso dire, io di calcio non ci capisco niente, te lo dico subito. Nemmeno io, infatti me lo dicono sempre, però, ma io non mi offendo neanche. Da juventino, quello che voglio dire, anche questo Conte ha fatto un lavoro incredibile, però Conte, come tutti gli allenatori, ha le sue simpatie e ogni tanto le scelte di Conte lasciano un po' perplessi, ma durante tutto l'anno, poi... per l'amor di Dio, ha ragione lui, 9 punti sulla seconda, tutto quello che... L'Italia è una cosa diversa. Esatto. Però quello che dico io è che, insomma, anche ieri sera, in effetti, la difesa a tre, con quei due che sulla fascia venivano avanti, sembravano dei treni, forse, ma non lo so, boh. Però, sai, col senno di poi è tutto più facile, no? Del senno di poi sono piene le fosse, lo sappiamo, però, insomma, il Bayern Monaco, ripeto, è una delle tre squadre più forti d'Europa insieme alle spagnole. Ieri il Barcellona ha fatto 2-2 sul campo di Ancelotti, ha perso Messi per la partita di ritorno, perché mi pare siano una ventina di giorni per il problema muscolare di Messi, rimediato ieri sera. Stasera guarderemo Real Madrid con il Galatasaray, però mi pare confermato il fatto che ci sia una certa distanza tra Bayern di Monaco, Real Madrid e Barcellona e tutte le altre. La Juventus ieri sera ci ha provato, ha misurato se stessa e le sue forze, come è necessario fare in un processo di crescita con chi è più forte, e ieri sera l'abbiamo visto. Ma soprattutto noto come Il Bayern Monaco aveva preso molto sul serio questo impegno, come la partita sia stata preparata perfettamente e come i tedeschi abbiano messo in difficoltà la Juventus sul suo terreno, cioè su un centrocampo che in Italia non trova rivali. Se vai all'estero trovi corsa, trovi qualità e allora possono anche uscire partite come ieri sera. Filippo, provincia di Novara, 800 24 00 24, numero verde. Genta, buongiorno. Ciao. Ieri sera ho fatto quello che non è riuscito con la Formula 1. Ho provato a aspettare, vediamo il posticipo della Champions, no? Ho detto non guardo niente, televideo, non guardo niente. No, aspetta un attimo, hai fatto il gufo? Mezzo. Allora sentiamo, allora ci vuole il gufo. No, ci vuole, aspetta, ci vuole il gufo. Non nascondiamoci dietro un dito. No, perché dopo l'esperienza del Milan io mi sono detto, cioè la Champions è proprio tutta un'altra storia, cioè non ce n'è, il campionato è una cosa, la Champions proprio, il Napoli l'ha dimostrato che non è la squadra da Champions e ha fatto la fine che ha fatto, il Milan anche, e la Juve li ha seguiti come un treno. Immaginate il City che spende, immaginate il City degli Sheik, chissà come sono contenti. Invece ancora, come sono contenti. Però sicuramente il progetto va sviluppato, ma non quest'anno sicuramente, non c'è ancora la squadra da Champions League, e il Bayern ieri sera con la freddezza tedesca l'ha dimostrato subito, 30 secondi. Freddezza, sai, organizzazione, qualità, perché comunque un giocatore di classe, esperienza internazionale come Schweinsteiger la Juventus non ce l'ha, perché Müller secondo me è un fenomeno, Ribéry sì che è un top player a differenza di Robben. Insomma, Robben non è un top player, va a corretta alternata, fa delle partite, però guadagna come fosse tale, eh. Secondo me è un giocatore bravissimo quando le cose vanno bene, quando le cose sono difficili. Ieri l'ho visto sbagliare due gol che, cioè, se fosse il mio top player l'avrei seguito con il randello, eh? Perché quel tiro addosso a Buffon e quell'altro tiro completamente sbagliato e che non ha nemmeno preso la porta, erano due gol molto facili quelli. Posso anche spiegare se volete perché. Vai. Da un punto di vista fisico, è il famoso effetto Magnus. Effetto? Io ti seguivo. È il famoso effetto Magnus. Cioè la palla, avendo una rotazione in avanti, ha una tendenza a frenarsi. Quando la palla non ha più la forza centrifuga, diciamo, di giro, precipita praticamente. È esattamente come quando tu vai in autostrada e freni. Vabbè, diamo la colpa al pallone, ragazzi. Va bene. Allora, diamo pure la colpa al pallone e all'effetto Magnus, ricordando che su un campo si gioca in due e si usa lo stesso attrezzo, cioè lo stesso pallone, quindi diamo pure la colpa a questi palloni volanti. Io ho visto Robben sbagliare due gol da principiante e se Robben è un top player lo sono anch'io. Mimmo, Roma. Fogatissimo, finalmente dopo tanto tempo. Che come dopo? Che vuol dire? Cosa vuol dire? No, nel senso che vi sono un fervido sostenitore convocato quotidianamente. Mimmo, sei convocato sempre, 800 24 00 24, poi si convocano in un sacco, quindi... Certo, sai sono com'è? Un tifoso juventino, ieri non è colpa di Buffon. Beh, un po' diciamo sì, dai. Beh, dai, un po' sì. Però facendo un'analisi, diciamo, logica della partita, sembra il primo anno dell'era Mourinho all'Inter e poi il secondo anno probabilmente con un po' più di esperienza e partite fatte dai vari Peluso, Asamoah. Asamoah sta in panchina, Peluso sta in campo, cioè, eccetera, sì, non, Quagliarella. Probabilmente si potrà arrivare ad una semifinale l'anno prossimo. Vidal è un gran giocatore. Ieri è stato tirato pazzo da Ribéry, si è beccato un giallo, sì, che alla fine era quasi inevitabile, non giocherà la partita di ritorno. Io mi domando che fine abbia fatto Asamoah, che ha fisicità. Mi domando perché uno come Pogba, che pure è un bambino, però gioca titolare nella nazionale francese e che ha fisico, ha corsa, ha capacità di incontro, non possa giocare fin dal primo momento. Ieri, cioè, il Bayern è una squadra da affrontare anche dal punto di vista fisico. La Juventus è andata sotto dal punto di vista fisico. Quindi io mi gioco i miei atleti più forti, no? Esatto. No? Volevo solo fare un inciso. L'anno scorso tre delle quattro semifinaliste erano Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco. Quest'anno potrebbe succedere la stessa cosa, quindi effettivamente chi gioca ha più chance di arrivare in finale. La Juventus... Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco sono le tre squadre più forti d'Europa, a mio parere. Ieri sera, insomma, chiedevamo alla partita di ieri sera e chiediamo all'esame di orale di ritorno di capire quale sia il valore assoluto della Juventus in chiave europea. Ieri sera nello scritto l'abbiamo capito, non c'è niente di male, la Juventus deve crescere. Secondo me erano chiacchiere il fatto che potesse essere competitiva in Europa in questa versione. Ieri sera mi pare che ne abbiamo avuto la conferma. Poi aspettiamoci una Juventus che comunque con il carattere e la personalità che ha possa mettere in difficoltà il Bayern Monaco all'inizio della partita di ritorno. Resta un Bayern che secondo me è la versione riveduta, corretta, migliore, con più soldi e con più classe della Juventus di Conte. 800240024, vi aspetto qui dopo la borsa. Ribéry dalla parte di qua, mamma mia. Tutti convocati. Quando la palla frena, come la tua macchina punta in avanti, anche quella palla prende la forza di gravità, esatto. Si punta e cambia ma giro. Questo è proprio sull'altezza della palla, quindi si abbassa. Ma Buffon è andato sulla sua destra perché cambiando... ha una deviazione netta, la palla sarebbe andata sulla sua destra. Però invece, se lo vedi, la palla va a sinistra e poi arriva verso destra, proprio perché ha la deviazione. Guarda, vedi che va a sinistra e poi guarda qui. Hai visto che a un certo punto che prende la traiettoria tutta dall'altra parte? Perché prende la forza di gravità, il giro del pallone la fa sbandare, come ti succede in macchina, me l'ha spiegato un fisico, per questo dico. Vabbè, se abbiamo provato anche noi a convocare i nostri fisici di Möbius, solo che non intervengono, non hanno avuto informazioni sufficienti per valutare questo pallone, ma dai, cioè, sono anni che discutiamo dei palloni, della leggerezza dei palloni, delle traiettorie strane che prendono, però io dico, questo vale per tutti. Buffon su quel tiro strano che ha preso un effetto curioso, che è stato deviato da Chiellini, era comunque in ritardo e non c'è effetto Magnus o effetto Möbius che tenga. È stato un errore del più bravo portiere del mondo e come tale dobbiamo prenderlo. Intanto Kroos, ed è notizia di oggi, giocatore giovane e molto importante per il Bayern di Monaco, starà fuori 6-8 settimane, mentre Messi, che si diceva infortunato, problema grosso a Barcellona, con ogni probabilità, ma tra poco ci colleghiamo anche con Barcellona, sarà pronto per la partita di ritorno. 800240024 è il numero verde, i messaggi 349-238-6666. Secondo voi è giusto che Vidal salti in ritorno per un fallo di mano, invece Ribéry lo possa giocare nonostante il fallaccio sullo stesso Vidal? Scrive Stefano da Piacenza. Ieri Vidal è stato tirato pazzo da Ribéry, che è un vecchio furbacchione, che è un top player, che si è comportato da abile marsigliese e che ha costretto l'arbitro ad ammonire Vidal, ha cercato l'ammonizione di Vidal perché tutto sapeva, sa come era stato istruito da Heynckes, che ha visto 100.000 partite della Juventus e lo ha anche detto, è stato così invitato a cercare la munizione di Vidal, alla fine l'ha trovata e la Juventus non avrà nella partita di ritorno uno dei giocatori più importanti che possiede. David D'Arezzo, 800240024, 0024, numero verde. Buongiorno direttore, buongiorno. Ma chi è il direttore? Ma David, non sono, è Fabio Tamburini, io parlo di sport, sono un peone. Bravo. Beh, anche io uguale, cerco di parlare di sport. Comunque volevo dire che queste sono quelle famose sconfitte che fanno bene, che ti fanno capire a che punto siamo. Io parlo da tifoso juventino, chiaramente, e quando non ci metti le mani, come si dice in Toscana, bene, bene fa male. Diciamo che danno la misura, diciamo che danno la misura del valore assoluto della Juventus in chiave europea. Certo, d'altronde dopo tanti anni è il primo anno che ci rifacciamo le competizioni europee e non è colpa di Peluso e quanti altri, perché loro mi sembra che in difesa sì, un certo Dante e un certo Alaba a centrocampo sì, io Dante e Van Buiten non li considero una grande coppia di attaccanti di difensori centrali. Poi se mi spiegano perché un giocatore che a me piace un mondo come Asamoah non trova più spazio nella Juventus e gioca invece Peluso, io sono contento. Ma poi queste sono questioni di Conte, che li vede tutti i giorni in allenamento, eccetera, eccetera, no? Io penso che Conte sia un attimino... cioè, punti più a far vedere la sua bravura che la bravura dei singoli, e lo dimostra il fatto che noi non abbiamo un attaccante da doppia cifra. Se lei questo non è colpa sua, però, No, insomma, quando c'è la possibilità di prendere Drogba... un anno e mezzo, 10 milioni di euro. No, attenzione, Drogba, 10 milioni di euro, un anno e mezzo, io non piglierei se voglio guardare al futuro. No, è futuro, purtroppo è... cioè, mi domando cosa sia stato preso a fare Anelka, che io ho visto solo in... Io non l'ho mai visto giocare con la Juventus, so che ha giocato spezzoni di partita, io non l'ho visto. Lo vedo in panchina con la cuffia in testa, con la barba molto lunga, ma non l'ho mai visto in campo. Se potessi capire a cosa è servito l'ingaggio di Anelka, sarei anche abbastanza contento. Galatasaray prova a far paura al Real Madrid anche con le immagini, con il Maz che ringhia Ronaldo con leoni ruggenti. Secondo me forse non basta. Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Ciao. Senti, si diceva... ma no, non ce la dovrebbero fare, Ma dove vuoi che vadano? Ma abbi pazienza, cioè... Dove vuoi che vadano, possono far sentire tutte le calzoncine che vogliono, possono guardare da oggi fino a un minuto prima della partita il gladiatore. In due minuti ha detto vinciamo, quattro volte l'ha detto. Ha detto quattro volte, magari pigliano quattro fischi, magari pigliano quattro fischi. Può anche darsi, però la difesa del Madrid dai, prende gol da sette partite. La cosa che ha scatenato ieri l'ennesima polemica di Mourinho. Contro Mourinho, l'allenatore più odiato del mondo, i suoi giocatori compresi. Sì, beh, insomma, da alcuni. Sì, certo, non parlarsi col capitano della tua squadra non è un bel modo di affrontare l'ultima parte della stagione. Ma ormai il vento è così, no? Si è capito, il gioco è scoperto. Erano migliorate le cose finché appunto Casillas stava fuori. Adesso Casillas è tornato. Filippo, il gioco è scoperto. Mourinho gioca contro il mondo, non solo il mondo deportivo, contro il mondo madridista, sì. Giocatori compresi, e ha adottato questa tattica e li mette lì e dice: bravi, adesso fatemi vedere che siete capaci di vincere. Poi magari alza la coppa delle grandi orecchie, li saluta, va al Chelsea e alla fine ha vinto lui. Certo, no, è così. Lui, ovviamente, a me piace Mourinho, come ho scritto anche oggi, perché se la rischia, perché se stasera Diego Lopez fa quella che qua chiamano una cantata, cioè fa una, si esprime in una papera e ovviamente non esce vivo il povero Mourinho. Quindi se la gioca su un ma portiere, ci mette la faccia, Filippo. Sì, no, va bene, infatti è così. Però se, Filippo, posso leggere una dichiarazione di Beckenbauer che vedo ora sullo schermo? Alaba tirato da molto lontano, da 120 metri, per cui Buffon aveva tutto il tempo di prenderla nonostante la deviazione di Vidal, ma mi è sembrato un pensionato, dice Kaiser. L'ha detto Kaiser Franz, l'ha detto Kaiser Franz, non io. Noi ce l'avevamo anche oggi sulla gazzetta, però siamo sicuri che Kaiser Franz si esprime in questi termini? Ma non lo so, io lo vedo scritto, non ho sentito la voce, ma lo vedo scritto lì con la sua faccia occhialuta accanto su Sky, eh? Non me ne prendo la responsabilità per questa dichiarazione, che mi limito a riportare da cronista. No, ma ce l'abbiamo anche noi sul giornale, sono sicuramente vere, perché non è che, però dico, forse non so, non sono dichiarazioni da molto da Kaiser Franz. Comunque, ti dico due cose. La prima è che Leo Messi probabilmente giocherà la partita di ritorno. Lo sappiamo, ma io sono stufo di queste finte. Ho le tasche piene di queste finte. E il Barça chiagna e fotte tutte le volte. Mi sono stirato. Come sono cattivi gli avversari. Vabbè, allora, passiamo al secondo argomento. Sì, passiamo alla numero 2. Busto numero 2. Mister Genta, se vuole, propongo una convocazione di Andrea Sorrentino. Andrea Sorrentino. Lo vuoi convocare in diretta? Ma che stai a dire? Se lo vuoi. Vuoi parlare di Galatasaray? Adesso però sta cercando di mangiare per non intervenire apposta. Si vede che non ti vuole bene. Però se lo vuoi, quando finisce il boccone, se sì. Vuoi chiedere qualcosa, io se lo posso convocare così. Lo voglio. Lo vuoi? Sì. Adesso abbiamo beccato, guarda, adesso si scotta perché l'ha fatta a posto, ha mangiato il gambero e adesso ecco, è rimasta lì così la chela, te lo passo con tutta la chela. Eccoci qua, buongiorno a lei, professore. Sì. a voi com'era il gambero? Saputissimo, grazie, ma non credo che è un argomento proprio che interessi moltissimo i nostri ascoltatori. Eccoci, ciao a tutti. No, oggi stiamo facendo le pulce a tutti, oggi non abbiamo pietà, siamo cattivi da morire. Oggi siamo benissimo. Allora, questa sera, nonostante il leone che ringhia sulla faccia di Cristiano Ronaldo e nonostante Filippo Maria Ricci non mi voglia rispondere sul Barcellona che chiagna e fotte, perché Lionel Messi ieri sera è uscito che sembrava un reduce della terza guerra mondiale e giocherà la partita di ritorno, mentre Kroos fuori un po' di tempo. Vabbè, tanto stasera tutti, compresi i giocatori contro Mourinho, e poi vediamo cosa succede con il leone del Galatasaray che ringhia. Ma sai, vista così secondo me non c'è partita, soprattutto se il Galatasaray giocherà col modulo che tutti annunciano, un 4-3-1-2, con addirittura Sneijder trequartista e Drogba e Brook attaccanti. Secondo me è un modulo troppo sbilanciato per questo Real, che in contropiede fa malissimo, soprattutto se Terim confermerà quello che ha annunciato la vigilia, cioè che andrà all'attacco. A me sembra abbastanza strano di andare all'attacco al Bernabeu. In bocca al lupo, se vai all'attacco in Bernabeu, in bocca al lupo. E infatti, quindi aspettiamo di vedere le formazioni ufficiali e poi capiremo. Io la sensazione che ho in questi ultimi tempi è che Mourinho abbia abbastanza il controllo della situazione, nonostante tutti i suoi problemi con lo spogliatoio, ma ha cominciato a... cioè la squadra è cresciuta negli ultimi mesi quando lui ha deciso di mollare la Liga perché tanto era irraggiungibile e di concentrarsi sulla Champions League. Secondo me lui sta lavorando per quell'obiettivo e vuole ottenerlo, e poi salutare tutti magari anche con una bella pernacchia, perché quello è la sua sensazione, se lo conosco un po'. e magari portandoli via anche Cristiano Ronaldo. Tanto va al Chelsea, no? Io penso proprio di sì, Carlo. Ma ne siamo convinti tutti. Poi ci sono i depistaggi, Paris Saint-Germain, i consigli Ancelotti, sì. Tanto lo sappiamo, sì, perfettamente, Andrea, che le squadre che hanno i soldi in Europa si contano sulle dita. Ci sono tre. di una mano meno due, no? Quindi esatto, non esatto, è difficile fare i conti. E adesso, se Abramovic risolverà i suoi problemi veri o presunti con l'FBI, allora, c'è anche quello, sì. C'è anche quello. Vabbè, c'è anche quello, c'era da aspettarselo. Però io credo che Mourinho vada lì. Senti, Andrea, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio, ti auguro buon appetito. Salutami addio, quel lazzarone di Filippo Maria Ricci, grazie. Che si sta tuffando in un'insalata. Ti non, saluto a tutti. Non avevo dubbi. Ciao, grazie. Ciao. Tutti convocati. Ah, ragazzi, tutti convocati, 800 24 00 24 è il numero verde, io vi aspetto oggi e domani, insomma, perché non potete stare zitti. Parli, ridi e gufa, al ritorno alla Juve passa il turno, mi scrive un ascoltatore, io non gufo neanche un po'. Gufa il gufo. Io tifo Juventus, ma sono, insomma, realista da questo punto di vista. Anche se Piero da Torino mi scrive: ma come mai dopo tanti anni di esperienza non avete ancora imparato che le partite di Champions durano 180 minuti? Sì, durano 180 minuti, però i primi 90 sono stati una lezione di calcio, secondo me, e anche una misura della distanza tra queste due squadre. E lo dico arrabbiandomi, perché avrei voluto vedere una Juventus diversa ieri sera, non ne ha avuto la forza, evidentemente. 800 24 00 24, chiamatemi. Alessandro, Luca. Sì, buongiorno ragazzi, ma se è lei. Buongiorno. Buongiorno, dicevo. Buongiorno a lei. No, due brevi considerazioni. Allora, su Beckenbauer e Buffon, se Beckenbauer ritiene Buffon da pensione, penso. Ha detto che è un pensionato, ha detto che sì, è stato. Allora cambiamo il catetere anche a Beckenbauer, perché insomma, lasciamo perdere, insomma, una persona di 60 anni. Su Mourinho penso di avere. Sono essere omosessuale. Non ho capito. Su Mourinho, dicevo, penso di essere quasi omosessuale, in quanto io amo Mourinho in una maniera disumana, mi piace tutto di quello che fa. Vabbè, lei può fare quello che vuole, ognuno ha i suoi gusti, mio caro Alessandro. Io ne ho degli altri, mi piace Mourinho come allenatore, mi fa impazzire, però preferisco altre cose, mi perdoni, tiferò se la Juventus va fuori Real Madrid in questo finale di Champions League, perché mi piacerebbe sportivamente godere con Mourinho che alza la coppa e saluta tutti. Vabbè, finito? Sì, e lei? No. L'ultima cosa da interista, spero che comunque sia la Juve passi il turno, perché è una squadra che comunque merita, nulla da dire, anche se sono odiosi umanamente, devo dire che sono molto forti. Sì, ma ho capito, ma la Juventus merita da che punto di vista? Ma merita perché è una squadra che ha ritrovato orgoglio, personalità, ha ritrovato una dimensione europea. È chiaro che quando sei ai quarti di finale non hai delle squadrette davanti, hai delle squadre che hanno la tua personalità, il tuo orgoglio, hanno soldi, hanno giocatori. Consideriamo che la Juventus ha dei giocatori di livello economico non professionale un po' più bassi di quelli del Bayern. Ma chiaro, quindi, diciamo, questo è chiaro. Direi che tutto sommato questo la Juve sta facendo, e lo dico da interista, quindi pensi lei. No, ma al di là del dirlo da interista, cioè stiamo parlando di calcio, proviamo a prenderlo senza senza deformazioni professionali da tifoso. Cioè, ieri sera la Juventus, ahimè, per cui io ho ovviamente tifato e per cui tiferò al ritorno, ieri sera mi è sembrata molto distante dal Bayern Monaco, che è una squadra che gioca più o meno come la Juventus, che però ha molta più qualità. È stata agevolata come la Juventus a San Siro, e il parallelo tra le due partite non mi sembra così blasfemo. È stata agevolata da un gol a freddo, che è stata colpa di Buffon, e non ho dubbi, Beckenbauer, se dice che Buffon è un pensionato, beh, allora si cerchi un portiere più forte nel mondo. Buffon può aver commesso un errore su una palla che aveva una traiettoria strana, non stiamo a scomodare gli esperti della fisica, è stato un accidente, un infortunio, però se Beckenbauer ha detto queste cose, e io credo che abbia detto queste cose che sono riportate da tutti, abbia detto una fesseria sul fatto che sembrava un pensionato, spero che al ritorno Buffon gli pari 8 rigori e li cacci a casa, ma questo è un mio parere personale. Ebbene, è andata così, cioè ieri sera abbiamo visto una Juventus dominata sul piano dell'intensità e della qualità dal Bayern di Monaco, semplicemente questo. Lillo, provincia di Latina, buongiorno. Buongiorno Carlo, grazie per la convocazione. Sempre convocato, allora, Lillo, sempre. Sì, sì, no, ma io sono convocatissimo tutti i giorni, però non sempre posso chiamare, anche perché oggi per entrare in diretta ci è voluto una bella insistenza, ma immagino anche insomma la giornata ma sicuramente di quelle impegnative. Sì, ma sono tanti, ma abbiamo tempo anche domani, dopo domani. Sì. Siamo sempre qui. E ho voglia, prima del ritorno, ho voglia parlare di questa partita. No, io sono juventino, per cui sono estremamente fiducioso per la partita di ritorno, ma per un semplice motivo. Perché io mi ricordo la Juve di Lippi, e questa mi sembra a livello di guida, a livello di manico, molto simile, una Juve che era come una spugna, imparava tantissimo dalle partite che giocava, e secondo me il Bayern ieri sera ha avuto il grosso demerito di non fare il terzo gol, perché se fa il terzo gol la qualificazione è chiusa. Sì, finita. Così, invece io conosco... No, ma io puntavo... Molto orgoglioso. Io molto... le giuro puntavo sull'1-0. No, non mi dai no. Tu, mi fai sentire. Lillo, io ti giuro... Sì, siamo vecchi tutte e due. Puntavo sull'1-0, perché quando ho visto a inizio ripresa che comunque loro avevano possesso palla sì, ma non pericolosi, alla fine tu dici 1-0, ok, teniamoli lì e poi vediamo al ritorno. Hanno trovato il secondo gol e adesso diventa difficile, perché è inutile nascondersi, no? Speriamo in una partita molto lunga, speriamo in una Juventus molto aggressiva. Sai, nelle coppe quella cosa dell'Inter contro il Tottenham insegna, può succedere qualunque cosa, però non farmi fare il banale. Ti lascio, ci sono tre squadre in Europa, l'avete detto prima, l'hai detto anche tu, che sono sicuramente superiori alle altre, sono le due spagnole e questa qui, quindi sicuramente su 8 squadre beccarne una di queste tre, il sorteggio non è stato favorevole. Però io dico che la Juve ritorna in Europa, se si mette adesso quest'anno alle spalle di queste tre, è già un passo avanti. Cioè il fatto di uscire ai quarti, bisogna vedere anche con chi esci. Sì, se fossi uscire ai quarti, sicuro, con il Malaga, sicuro, il discorso era un po' diverso. Sicuro. E comunque ripeto, si può uscire, ma secondo me al ritorno vedremo una signora partita da parte della Juve. Ma sto aspettando, ma infatti sto aspettando, tra l'altro. Io ne sono certo. Ma ne sono certo anch'io. Resta il fatto che, insomma, il primo tempo dice che il Bayern di Monaco è più forte della Juventus, e anche questa non deve essere una diminuzio per la Juventus, ma semplicemente una presa di coscienza per il futuro. Se si vuole arrivare a certi livelli, allora bisogna cacciare il grano e attrezzarsi. 800240024, anch'io sembro un pensionato, mi scrive un ascoltatore. Benissimo, spero di arrivarci all'età della pensione. Francesco da Bari, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. No, io direi che sparare sul pianista è troppo facile. Chi è il pianista? È il povero Buffon. Quindi per quella che è stata l'incertezza sua, per come è capitato, su questo non c'è dubbio, perché ha tanti pregi. Però è vero che non dobbiamo nemmeno dimenticare che quando c'è stato Storari e Buffon era infortunato, sì, la Juve comunque ha inanellato un bel po' di risultati, sì, utili consecutivi. Francesco, allora, non Buffon è Buffon, Storari è un bravissimo portiere, Buffon è un fuoriclasse. Che Buffon ieri sera possa non aver giocato una buona partita o aver fatto degli errori è indiscutibile. Se vogliamo dar la colpa al pallone, facciamolo, io non lo faccio, però è evidente come quel primo gol Buffon, il Buffon che conosciamo, avrebbe dovuto evitarlo. Poi anche sul secondo la difesa della Juventus non mi è sembrata particolarmente impenetrabile, anche quella respinta di Buffon non mi ha particolarmente convinto. Detto questo, se Beckenbauer ha detto che Buffon sembrava un pensionato, io dico pensi ai fatti suoi, perché averne di pensionati come Buffon, dico soltanto questo, quindi non si tratta di sparare sul pianista. Claudio Verona, poi chiudiamo. Dica, Claudio. Buongiorno signor Genta. Salve. Niente, io volevo dire, però lei prima diceva che Robben ha sbagliato due gol, diciamo, no? Due, che sì. due un po' facilini, ha detto, no? Due facili. Allora sullo stesso piano dobbiamo mettere anche Buffon, però, perché Buffon ha preso due gol che onestamente un portiere di un livello mondiale non li prende mai due gol così, ecco, quello volevo dire. L'ho detto, allora Claudio, l'ho detto fino adesso, Buffon ha preso due gol che non doveva prendere. Una serata disgraziata a Buffon può capitare dopo un miliardo di serate in cui ha salvato risultati con la Juventus e con la nazionale. Dico soltanto che se Robben è un top player, ebbene è un top player che, per il quale io non spenderei una lira, perché quando gioca partite che contano si scioglie, e ieri sera ha sbagliato due gol secondo me incredibilmente facili, uno sparandolo addosso a Buffon e l'altro tirandolo fuori. Quindi mettiamoli pure sullo stesso piano, soltanto che per Buffon può essere stata una serata sventurata. Per Robben ci sono vari episodi con varie maglie che dimostrano come nelle partite importanti finisca per sparire. Adesso spariamo anche noi, no, spariamo, scompariamo anche noi per ricomparire domani pomeriggio alle 14. Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia, ciao. Come succede in macchina e in autostrada, punti in avanti e sbandi, è la stessa cosa che fa l'effetto, famoso effetto Magnus. Praticamente è l'effetto che danno chi però vede il baseball, la curva del lanciatore di baseball sfrutta esattamente lo stesso tipo di fisica. E si chiama, infatti l'hanno studiato, applicato alla pallina da golf, effetto Magnus inizia a applicare la pallina da golf, il motivo per cui la pallina da golf ha i buchetti e non è liscia come il pallone da calcio, e poi sul baseball. Scusate se faccio di queste cose di fisica, so che molti prendono in giro, però a me piace studiare queste cose anche.